si yo viene el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Essendo parecchi anni che osservo la televisione, parlo di televisione, articolo gran parte della mia professione come analista della televisione, ho ultimamente un po' preso la ruggine perché mi sto interessando, ne è prova testimoniale quello che voi ascoltate ogni giorno, un po' più alla realtà rispetto al grande riflesso dell'umanità nello schermo di un televisore. Quando me ne cominciai a occupare, ancora l'esercizio dell'osservazione della televisione era una pratica abbastanza elitaria. Io mi ricordo mi affibbiarono subito l'etichetta di critico televisivo, non ho mai saputo cosa significasse essere critico televisivo. Perché? Perché parlavo di televisione. Ciò mi dava un grande prestigio, una grande importanza, soprattutto i primi tempi che ne parlavo. Ricevevo tantissime telefonate, tutti erano preoccupatissimi di ciò che uno avrebbe potuto dire in un programma radiofonico, nelle colonne di un giornale riguardo all'ultimo programma televisivo. È come se si trattasse di una rappresentazione dell'ingegno umano, come se fosse equiparabile a una pièce teatrale, a un film, a un'opera di letteratura, a una musica. Io guardavo la televisione con il folle trasporto e con l'inconsapevole senso di non appartenenza alla classe rispettabile dei critici di una persona che si trovava di fronte a uno spettacolo per lui nuovo. Non avevo mai guardato la televisione. Venivo da una famiglia che mi aveva impedito la visione televisiva, la televisione è entrata a casa mia che ero già grande, quindi già disinteressato. Per me era il peccato di gola, l'andò a vedere di nascosto a casa dei miei amici, quindi riscoprirla e avere anche la gratificazione del fatto che era la mia attività professionale per me è stata una grande gioia, una grande liberazione, un gran desiderio. Ma perlomeno quando cominciò a parlare televisione, parlo circa agli inizi degli anni 90, ho cominciato ad occuparmi a metà degli anni 90, ho cominciato seriamente ad analizzare la televisione in maniera quotidiana, era qualcosa che ancora rappresentava perlomeno una visione laterale rispetto al racconto quotidiano della realtà. In pochi si parlava di televisione, iniziò seriamente Beniamino Placido a porre dei sistemi di riferimento assoluti all'interno della televisione. La televisione era un grande libro aperto che raccontava l'umanità con gli stessi riferimenti simbolici, quasi mitici, che potevamo trovare, non so, nel racconto epico dell'umanità. Beh, invece mi sto accorgendo che ultimamente, grazie a Dio, ciò ha corrisposto con il mio abbandono della televisione come luogo di osservazione privilegiato di tutte le mie suggestioni, tutte le mie curiosità, tutti parlano di televisione. La televisione si alimenta ogni giorno della sua stessa materia fecale. La televisione digerisce, sputa fuori e si libera dei suoi reflui, il giorno dopo ricucina e ripresenta queste pappine riscaldate di ciò che è andato il giorno prima. La televisione quindi è in un momento di stasi, un momento in cui non riesce, almeno apparentemente, più a creare nulla. La televisione è gestita e dominata da una classe di persone che vive al suo interno come dei faraoni nel proprio sarcofago, mummificati, immutabili e accreditati in una sorta di elezione divina del fatto che loro possano stare lì. Beh, invece questa mattina voglio con le persone che mi stanno ascoltando proprio parlare di televisione. Avere creato l'illusione così facile di poter essere famosi senza valere nulla, senza saper fare nulla, ha ammazzato ogni valore. Il problema è che una volta si diceva ci vuole la patente. Ecco, quello lì ce l'ha la patente? Non ce l'ha. Se uno non ha la patente per indicare vie televisive, programmi, eccetera, lascia che lo faccia la persona che ha dedicato una vita in questo mestiere. Io sono Giovanni, ho 41 anni. In merito alla televisione vi posso solo dire che sono 6 anni che praticamente abbiamo spento la televisione a casa nostra. Oggi la televisione è un po' come l'immagine che esiste fra due specchi che si contrappongono. È indefinibile, indicibile, eppure qualcosa c'è all'interno dei due specchi. Uno specchio è rappresentato dalla classe immarcescibile di coloro che si sentono rappresentanti della televisione, quindi sono per eccellenza coloro che hanno passato una loro vita professionale, ma anche umana, in cui non ci sono state differenze fra quella che era la loro vita di esseri umani e la loro vita di esseri televisivi, che si sentono fortemente toccati nell'aspetto organico, fisiologico, perché sono vecchi e prima o poi dovranno morire, è fisiologico, ogni essere umano deve morire. Beh, loro si ribellano a questo ineluttabile destino e sottopongono le loro persone a una duplice e stressante attività di rigenerazione esteriore dei loro tratti somatici e di mantra interiore che confermi la loro esistenza ad eternum. Infatti Pippo Baudo dice: bisognerebbe creare una sorta di patente interpretando e facendo sua una senile e molto criticata lettura di Karl Popper riguardo agli autori della televisione, che dovrebbe essere una sorta di classe sacerdotale sottoposti a un esame per poter avere questo delicato compito di definire l'immaginario della popolazione dell'utente, beh, dicendo che in realtà la patente da averla colui che ha il talento di fare televisione. Naturalmente il talento ce l'ha chi fa televisione. La televisione attribuisce il diritto di costruirla, di comperla a coloro che già la fanno, quindi una classe chiusa, quindi c'è proprio il senso della dinastia che ahimè segna già fortemente il passo, proprio per il fatto che è fatta di incroci fra consanguinei. Dentro la televisione sono persone che sembrano appartenere tutta alla stessa famiglia e quindi il loro sangue si sta marcendo come le dinastie dei faraoni, e quindi sono destinati comunque alla scomparsa, lo sanno ma non si rassegnano. E l'altro aspetto, l'altra faccia dello specchio dentro cui cercheremo di definire un contenuto, è quello del verginellismo televisivo. E coloro che dicono: io non ho la televisione, ho buttato via la televisione, non guardo la televisione, leggo un buon libro, ascolto musica classica, parlo con gli amici, tocco gente, non mi lascio influenzare da questo mondo. Ma nonostante questo ne fortemente, radicalmente è toccato, contaminato. Tanto che si stanno costituendo delle identità, noi lo vogliamo o no, non ci piacciono, costruite proprio da questa sorta di universo che si stabilisce fra due specchi che si riflettono tra di loro. Senti, io volevo soltanto parlare un momento di quella specie di, scusi l'espressione ma è dura, di postribolo che è la trasmissione di Canale 5, insomma, sembra una specie di ruffiane, insomma, veramente fa venire il vomito, gli uomini e le donne lì, provarla. L'ascoltatore si riferisce, che è un essere umano, un telespettatore che soffre, ahimè, di questo terrificante morbo che è il verginellismo televisivo, una sorta di grido moralistico nei confronti del postribolo che vede ogni pomeriggio. Penso che sicuramente allude a Uomini e Donne, programma in cui si costituiscono nuove classi, nuove dinastie, nuove tipologie umane, nuove identità, persone si corteggiano, persone hanno una sorta di certamene amoroso tra di loro, con i tronisti, le troniste, il personaggio che insegue, il personaggio viene corteggiato, con le uscite in esterna, con le fasi del corteggiamento, della seduzione, del possesso, della fuga e del rifiuto, tutto ciò che la letteratura amorosa ha sempre cercato di contenere in termini poetici, la televisione lo rappresenta come se fosse il processo che genera una nuova classe di esseri umani. Beh, per parlare di questi argomenti, su cui io posso soltanto intrattenervi in maniera visionaria, del tutto non strutturata su basi solide di ricerca, ho chiesto l'aiuto a Piero Vereni. Vereni, buongiorno. Buongiorno. Vereni è un antropologo, è un ricercatore all'Università degli Studi di Tor Vergata a Roma. Ha lavorato molto sul campo, proprio nell'analisi di quelle che lui chiama le identità catodiche. Sull'identità catodica è uscito un suo ultimo libro per la casa editrice Meltemi. Allora, Vereni, io ho fatto una lunga premessa per definire quello che è il mio punto di vista. Quando si parla di televisione non se ne può parlare da punti di vista neutrali o neutri, bisogna contaminarsi. Anche coloro che dicono che non guardano la televisione in realtà ne sono fortemente contaminati. Com'è possibile che la televisione, che oggi sia così inflazionata, appartenga a tutti il diritto di parlarne, di criticarla? La televisione si alimenta continuamente citando se stessa, tutti gli editorialisti usano la televisione, come faceva Placido 20 anni fa, come sistema di riferimento alla realtà, eppure secondo lei la televisione è un mezzo ancora capace di costruire delle identità? Sì, io penso soprattutto per quanto riguarda a livello collettivo, bisogna distinguere sempre insomma, tra il messaggio che l'autore vuole veicolare e invece il messaggio che è spedito da chi la televisione la guarda, insomma, c'è questa discrepanza sistematica di cui si tiene troppo poco conto, insomma. Noi raccontiamo sempre l'aneddoto, insomma, del modo in cui è stato vissuto la prima grande soap opera cosmopolita, cioè Dallas, insomma, in certi paesi del Medio Oriente alcune figure della tipo Suellen, insomma, Dallas venivano recepite come un modello di emancipazione femminile. Professore, se può allontanare un attimo la bocca dal suo telefono, perché sennò ecco, fa un po' di rumore. Ecco, perfetto, sì. La sentiamo meglio adesso. Sì, prego. La percezione, io mi ricordo, la prima soap non era percepita, almeno in Italia, vediamo se lei è d'accordo, come un prodotto popolare, ma c'era questa sorta di doppio salto mortale. Ricordo le colleghe dirigenti negli uffici RAI, allora lavoravo in RAI, ma tutte le signore di rappresentanza, ma come pure anche i signori, avevano questa sorta di pausa liturgica in cui guardavano la soap come se fosse una meravigliosa eruzione in un immaginario che loro non conoscevano. Sì, appunto, però anche lì ci sono stati dei livelli diversi proprio di fruizione, no? Si poteva, che ne so, guardarla con distacco ironico, si poteva vederla come un modello anche possibilmente plausibile da imitare, insomma, il problema grosso del messaggio televisivo è sempre quello, insomma, è il problema enorme del messaggio in generale, insomma, che una volta che è liberato, il soggetto, l'emittente, purtroppo non lo controlla più. Sulla costruzione di nuove identità attraverso la televisione, la soap a suo tempo se ne parlò tantissimo, si diceva che in realtà importasse dei modelli edonistici, ma erano gli anni dell'edonismo, cioè a parte anche della visione satirica e burlettesca della televisione, direi che erano, ricordo, D'Agostino parlava di edonismo reganiano degli anni Ottanta, ma in realtà facendo questo certificava il fatto che la televisione doveva in qualche maniera certificare e testimoniare quell'edonismo che si viveva, perlomeno almeno nell'idea o nell'impressione. E quindi era sempre vista con un senso di moralità. Ma oggi che viviamo in anni tutt'altro che edonistici, al di là della lettura, in anni in cui ci si riguarda molto e si cercano le basi essenziali del nostro vivere, quali sono i modelli che crea la televisione anche con minor scalpore, con minor partecipazione totale? Io ho fatto sentire un pezzetto di Uomini e Donne, ci stiamo andando vicini. Sì, certo, io diciamo, nel libro mi occupo abbastanza lungo, insomma, tra i vari casi anche di Maria De Filippis, ma che considero uno degli artefici di certe forme nuove di identità, insomma, in programmi come C'è posta per te, soprattutto lei rende disponibile, l'ipotesi è questa, insomma, rende disponibile un modello di soggettività che normalmente apparteneva all'elite borghese, cioè il modello della persona che si costruisce la propria immagine di sé attraverso un lavorio interiore sulle emozioni e sulla rappresentazione di sé. E quali sono i mezzi concreti, il set che viene messo a disposizione di queste persone? A volte sono inquadrature molto strette, apro la busta, non apro la busta, questo gioco che fa lei è sottilmente sadico ma efficace, ma allora rinunci, allora puoi andare via, allora la persona che rinunciava di vedere la persona che ha mandato il messaggio e si pente, e poi i genitori vicino, questi insieme familiari e questa grande vena emotiva, le persone sono consapevoli che le telecamere gli prestano una sorta di mezzo fantastico per tirare fuori le loro emozioni e rappresentarle. Ma soprattutto le persone sono sempre più consapevoli che nella modello narcisistico di società in cui viviamo è l'unico modo di avere delle emozioni vere. Lei lo vede con un'accezione negativa dire un modello narcisistico, perché noi narcisi ci sentiamo molto messi con le spalle al muro, oggi è un termine molto inflazionato, sei un narciso, abbasso il narciso. No, non c'era nessuna... No, la domanda è, ognuno pensa... No, non c'è nessuna connotazione moralistica nel mio giudizio, cioè c'è la constatazione di fatto che nella cultura visiva o come si dice oggi visuale, insomma, sempre più il soggetto esiste nella misura in cui è visibile, è visto, è rappresentato pubblicamente, quindi l'esperienza di un reality è paradossalmente la vera esperienza perché è vista. Però lei ha notato, questore, che nella percezione dei sensi di colpa oggi sono caduti in a livelli infimi, sensi colpa legati, non so, ai disonesti comportamenti, in tutta l'accezione possibile e immaginabile, disonesti comportamenti al punto di vista, non so, della fedeltà familiare, dei comportamenti sessuali e della rettitudine nel mondo del lavoro. Ma viene vista una grande colpa il fatto, vuoi metterti in vista, vuoi andare in televisione, il reality è fatto da persone che vogliono mettersi in vista. Più noi siamo istigati, sollecitati e abbiamo voglia comunque di entrare in questa grande macchina che ci dà esistenza, e più in realtà esiste un pregiudizio comune, ciò sia male, sia colpevole, anche se poi non fa male a nessuno in realtà. Quello, diciamo, è il grande paradosso della televisione, no? Che è diventata in buona parte il luogo dove si parla male della televisione. Della televisione se ne parla quasi sempre ed esclusivamente male. Insomma, io penso che bisognerebbe un po' spostare il centro d'attenzione, non dal giudizio morale al tentativo di conoscere i meccanismi, appunto, sociologici, psicologici che la televisione riesce ad attivare. Lei è d'accordo, professore? Io tempo fa facevo questo tipo di paragone. I primi film di fantascienza, i film quelli fatti con sistemi di rappresentazione molto rozzi ma anche molto efficaci, c'era sempre questo mostro verde che più sparavano cannonate contro di lui, più gli lanciavano con lanciafiamme, gli tiravano la bomba atomica, più si rafforzava. La televisione ha capito come il mostro della protofantascienza più riceve bastonate, più è bersaglio e più in realtà diventa centrale? Assolutamente sì, io penso che sia proprio la qualità, l'unica qualità tecnicamente mitica della televisione, no? Che riesce a digerire, a fagocitare e poi a defecare tutto, ma riesce ad arricchire l'unico vero mito, che è quello di essere se stessa. Insomma, noi ci ha convinto di essere un canale di comunicazione del visuale, mentre oggi, insomma, ci rendiamo conto, appunto, Facebook, che ci sono 100.000 altri modi di espressione. La televisione insiste a proporsi come il grande canale della comunicazione visuale. In quindi l'unico sviluppo culturale ecosostenibile e quindi fatta di energia rinnovabile è proprio il grande papocchione della televisione. Sì, in un certo senso sì, perché è rinnovabile, bisogna vedere. Io, guardi, mercoledì scorso guardavo la squadra in televisione e durante la pubblicità ho cambiato canale e sono rimasto sorpreso di vedere, c'era Dario Vergassola che parlava con, ho visto per un attimo Gianfranco D'Angelo che faceva la parodia di Raffaella Carrà. Ho detto, guarda che strano, hanno ritirato fuori Gianfranco D'Angelo. Che è una cosa di drive-in di almeno 15-20 anni fa. Ci ho messo 2-3 secondi a rendermi conto che invece era effettivamente Raffaella Carrà oggi, che somigliava, tristemente lo dico, insomma, a Gianfranco D'Angelo quando ne faceva la parola. Beh, si ricorda Funari che riebbe una vita pubblica dopo varie sue infelici vicende professionali e personali, quando Corrado Guzzanti fece Funari, rilanciò fortemente Funari, e Funari per esistere imitava Guzzanti che imitava lui stesso. Ecco, io penso che quello sia, diciamo, uno dei meccanismi di base, diciamo, del processo simbolico della televisione, no? Che scarta sempre di lato rispetto all'oggetto che mette a fuoco, no? Quindi non può produrre miti veri, però produce il mito di se stessa. Su questo mi sembra che riesca comunque ad essere in grado di sopravvivere. Assomiglia alla perfidia dei virus più insidiosi, che sono impossibili da eliminare proprio perché si riproducono e riescono a entrare proprio nelle difese dell'organismo che vorrebbe invece mandarli via. Sì, sto riflettendo su questo, è un po' come lo Stato nazionale, no? Se ne parlava come di un'entità moribonda 15 anni fa e invece abbiamo visto come sia perfettamente in grado di adattarsi ai mutamenti del contesto per riuscire a sopravvivere. Ma perché ti sei sposato questa signora? Perché lei mi tradiva, io e ce l'avamo lasciati, non stavamo più insieme. No, noi vogliamo sapere perché ti sei sposato con quella lì, con la Romina. Un po' per fare piacere a un amico e un po' per fargli rispetto a lui. E ti sei rovinato tu stesso. No, adesso l'ha detta la verità. È l'unica volta nella vita sua che dice la verità, forse. No, dagli occhi si vede, mamma. Perché qua, quando ha detto la verità la prima volta dei figli, è scappato. Abbiamo perdonato. Piero Vereni, ascoltando soltanto l'audio, smarginato e tolto dalle considerazioni legate alla suggestione visiva, in effetti è vero, un brano di Maria De Filippi sembra quasi una sorta di contemporanea lettura epica dei grandi sensi che hanno sempre sconvolto l'umanità: la fedeltà, la riunione della famiglia, l'odio e il massacro comunque dei sentimenti all'interno di gruppi umani. assoluto, cioè quello che il borghese, diciamo, ottocentesco e della prima metà del Novecento poteva acquisire soltanto attraverso un lungo cursus sonorum fatto di lettura di pallosissimi bildungsroman e letteratura, diciamo, in cui il soggetto si costruiva in questa maniera, oggi è reso disponibile così, in 2 ore di programma, insomma, quello stesso soggetto fragile, tutto incentrato su dilemmi morali e non, diciamo, questioni pratiche, quello stesso soggetto oggi lo può rendere fruibile anche per il panettiere, la sarta, il vicino di casa e la commessa del grande supermercato. Beh, noi siamo arrivati alla fine della prima parte, professor Verini, ci sentiamo tra qualche istante, e la domanda sulla riflessione che pongo sempre al nostro pubblico è proprio questa: in fondo la televisione potrebbe essere un grande strumento di letteratura popolare, inconsapevole naturalmente, e attraverso la televisione non è detto che l'umanità possa ancora riflettere su punti che non ha più occasione di avere nel proprio immaginario quotidiano, proprio perché non legge più libri, perché non va più a teatro, perché non ha più, si è rotto il filo indissolubile tra sapere del passato e sapere contemporaneo. Melog 2.0. Riprendiamo un discorso molto faticoso da fare sulla televisione, perché oggi nulla darebbe più gloria e più considerazione del popolo tutto ci ascolta che dire la televisione è un grande luogo di infamia, che la televisione è il luogo che genera ogni perversione dell'umanità, che in televisione ci vanno soltanto quelli che vogliono essere rappresentati non per le loro qualità, che si acquisiscono soltanto attraverso una vita di lungo e profondo studio, di acquisizione, esercizio di qualità e talenti. In realtà la televisione è aperta a tutti, è veramente tutto uno schifo. Ecco, se dicessi la televisione è tutto uno schifo, non guardo più la televisione, mi farei molti amici. Ma siccome sto facendo con Piero Vereni, ricercatore all'Università di Studi Tor Vergata, che ha scritto Identità Catodiche, un libro teso a capire quanto in realtà questa televisione che tutti schifano ma di cui nessuno riesce più a fare a meno, anche coloro che non l'hanno ne sono contaminati, e assieme a una new entry in questa trasmissione che è il mio amico Tommaso Labranca. Tommaso, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Ecco, siccome mi do del tu con te, nel frattempo ho fatto anche amicizia col professor Vereni durante la pausa, mi darò del tu anche con il professore, se sei d'accordo. Mi fa molto piacere. Ecco, noi siamo atipici osservatori della televisione, tu Tommaso soprattutto, anche se hai fatto l'autore di grandi programmi televisivi per molto tempo, ne sei piuttosto considerato laterale adesso, non hai una grande fortuna, ti chiamano sempre di meno, perché a questo punto parlare di televisione non in termini moralistici come fa Giletti quando fa l'Arena, che è il momento che trovo veramente meraviglioso, la televisione contemporanea, la televisione che mostra nel suo rito più popolare la sua cattiva fede, fa la morale a se stessa, mostra le sue mutande per far vedere quanto sono indegne, ma in realtà attira gli sguardi di tutti i necrofili che dietro con le mutande immaginano chissà cosa ci sia nascosto. Ecco Tommaso, tu invece hai una grande responsabilità, tu hai regalato alla televisione la nostalgia del suo immaginario più recente, più vicino, dietro tutte le rivalutazioni dei Cugini di Campagna che ancora girano e vanno cantando Anima Mia dalle feste di paese ai programmi televisivi, c'è dietro la tua mano assassina, o sbaglio? No, non sbagli, un po' me ne pento, dire la verità. Non bisogna mai pentirsi di ciò che si è fatto. Eh sì, ma dei risultati sì, comunque. Però hai regalato alla televisione il fatto che si può gloriare anche di ciò di cui si vergognava, perché è facile dire belle le gemelle Kessler, è bello il maestro Manzi, meravigliosa la televisione di Bernabé, ma la televisione c'erano delle cose tenute chiuse nel cassetto con vergogna, e tu hai dato modo che di questo non si potesse più vergognare. Ma sai, io penso che la vergogna televisiva sia nata con la stessa televisione. C'è un frammento del film Il Vigile, quello con Alberto Sordi e De Sica, in cui De Sica quasi si giustifica del fatto di aver visto Il Musichiere la sera prima. Diceva: passavo davanti al video per caso, e siamo negli anni 50, quindi la TV era appena nata. Quindi già nasce la televisione con la vergogna. Penso sia stato l'unico caso. Ma anche la lussuria nasce con la vergogna, se Dio vuole. Sì, ma ci si diverte di più con la lussuria rispetto alla TV. Ma tu trovi che oggi non ci si diverta con la televisione? Ma assolutamente no, l'unico scopo della televisione è quello poi di avere un motivo per lamentarsi, di dire che brutto, che schifo, non è più come una volta, dove andremo a finire. Poi regolarmente dopo 2 anni ci pentiamo, vedi, torniamo al pentimento di quello che abbiamo detto, perché poi abbiamo la nostalgia di quella che era la TV anche di 2 anni fa. Quando partono le nuove edizioni del Grande Fratello e scopri di avere nostalgia appunto di Taricò, dici beh, c'è qualcosa che non va in noi forse. Ma velocissima, professor Vereni, tu trovi che questo fenomeno di autostoricizzazione repentina che ha la televisione, che già il Grande Fratello, che come ha citato la Branca, che è qualcosa che ha 6 anni, 7 anni, mi pare, già entri in una sorta di pantheon. Taricone in realtà, visto quello che è venuto dopo, viene considerato come un capostipite e grande, un padre fondatore di un immaginario. Sì, però su questo bisogna un po' spostare, cioè ampliare penso un po' il campo. La nostalgia, diciamo, è un tratto contemporaneo molto forte e penso che dipenda, e ovviamente la televisione come diciamo strumento fondamentale della comunicazione se ne fa carico, ecco, ma io penso che sia più vasto. La nostalgia serve per ricordarci di quanto siamo aggiornati, cioè visto che il tempo, il presente si assottiglia sempre. Allontanati, più. Scusami dal telefono, sì, scusa. Fa un po' rumore. Visto che per il tempo presente si assottiglia sempre di più e le cose invecchiano rapidamente perché lo sviluppo tecnologico è tale, insomma. Essere nostalgici oggi è la garanzia che siamo up to date e quindi io penso che da questo punto di vista la televisione faccia un servizio di supporto, ecco, insomma, a questo principio. Tommaso Labranca, tu in realtà sei un vero intellettuale, sei una persona con studi profondi, fai il traduttore, hai 4/4 di nobiltà intellettuale, non ti mancano. Poi mi scrivi un libro, 7808, dove certifichi ancora una volta un senso inguaribile di nostalgia per immaginari creati dal cinema, dalla televisione, dalla grande macchina di riproduzione. Il tuo protagonista, Antonio Maniero, in realtà è quasi un parto contemporaneo del grande Tony Maniero, della febbre del sabato sera. Ma lì però di nostalgia ce n'è, non dico poca, ma è una nostalgia particolare, una nostalgia che crea un'immagine del passato che poi in realtà non esiste, perché nel 78 il personaggio, il protagonista del libro, ma io stesso, vivevamo veramente male, cioè a disagio, come comunque viviamo a disagio oggi, soltanto che quando le cose passano assumono una patina particolare di distanza, di sicurezza, perché comunque sai come è andata a finire, mentre il presente non è assolutamente sicuro, non sai che cosa ti succederà tra 5 minuti, è un'incognita, e allora si è veramente portati a rotolarsi un po' in questi ricordi e anche le cose più brutte diventano belle, quindi è una nostalgia veramente laterale, una nostalgia per le cose inesistenti e forse neanche vissute. Sì, però per fare questo tipo di esercizio, che è un esercizio letterario, anche poetico, molto raffinato, la televisione non ci riesce, non ha gli strumenti di elaborazione del reale per fare questa cosa qui. Perché il post La Branca in televisione è così rozzo, è così grezzo? Quando i cugini di campagna appaiono nel programma della Clerici è una mattonata sulle palle, non è assolutamente quella sorta di riscoperta della, come una nostalgia di quando giocava a dottore con le cuginette da piccolo. Ecco, qualcosa fra il non volerlo raccontare ma raccontare un'esperienza che in fondo in qualche maniera ci ha segnato. Ecco, perché la televisione è così incapace fortemente di lavorare in maniera leggera su questo tipo di nostalgia, Tommaso? Perché forse, adesso non vorrei essere cattivo, ma mancano. No, t'ho chiamato apposta. Mancano i medici che sono in grado di farti vedere bene queste malattie. Voglio dire, insomma, sono gli autori. Quando gli autori non sono in grado di presentare un materiale come va presentato, il risultato è questo. Io trovo che ultimamente, dal punto di vista autorale, la TV sia diventata assolutamente greve. Veramente copioni scritti con la mano sinistra e mentre con la destra si prepara la fattura. E diciamo che quando abbiamo avuto noi in mano la materia Cugini di Campagna avevamo un interesse forse più genuino, anche perché eravamo i primi a fare questa operazione, è un tocco un po' più delicato che non voleva prendere in giro quello che vedevi, ma semplicemente dire guardate, questi eravamo noi e oggi non sono più così, però non è il caso di riderne, magari solo di sorriderne. Ecco, oggi si tende sempre un po' a fare l'effetto ti procuro la risata, ti faccio ridere di questi perché sono dei mostri, mentre noi non lo siamo, in realtà siamo tutti mostri. Piero Vereni, sei d'accordo con questa lettura? Io vorrei andare ancora oltre. Come fa la televisione ancora a creare delle identità se esiste una così scarsa consapevolezza e mestiere da parte di chi in realtà dovrebbe averne il timone? La mia teoria è che la televisione ormai si autogenera, una sorta di partenogenesi, va oltre la volontà dei propri autori. Sì, quello è sicuro. sicuro, insomma, è assodato, come qualsiasi macchina che produce senso, va oltre la volontà dei propri autori, anche per un romanziere c'è lo stesso problema. Ma io credo che la televisione è intrinsecamente volgare perché si rivolge al volgo, letteralmente alle masse, insomma, non può essere raffinata, non può essere l'Italia, ci saranno alcune nicchie sicuramente in cui, ma il grosso della televisione mainstream è giusto che sia volgare perché se no non copre i costi di audience, insomma. Se un programma... Però scusami, come ogni cantastore, come ogni cantore di epica, alla fine al volgo si rivolgeva. I sensi alti e più profondi delle chiavi di lettura e di interpretazione dell'universo vengono mediati attraverso una forma di racconto. Quindi mantiene comunque questa sua vocazione, anche se può farci schifo o meno. Sì, è quello. Cioè, secondo me dovremmo mettere da parte, insomma, il fatto che ci faccia schifo. Anzi, probabilmente è interessante chiederci appunto perché ci fa schifo. Per esempio, io sono convinto che Maria De Filippi a tanti fa schifo perché lei mette a nudo i meccanismi dell'identità borghese. E li rende disponibili all'umpen proletariato, neanche al proletariato, insomma, no? Quindi rendendoli disponibili è ovvio che i borghesi si schifano, perché si vedono svelati i meccanismi di base della loro produzione identitaria. Quindi, cioè, il fatto che ci faccia venire i brividi o che ci faccia vomitare, come dice Bourdieu, la televisione, è un segnale che dovrebbe farci riflettere su noi stessi più che sulla televisione, insomma, che poi tutta la letteratura popolare fa vomitare, insomma, il buon borghese, ci mancherebbe altro. Altro, no? Tommaso Labranca, preparati perché tra un istante, dopo le informazioni sul traffico, sarei chiamato a rispondere proprio su questo tema. Tu, che sei stato un così acuto osservatore di tutti i vizi della società borghese che costruiva le villette in Brianza a imitazione, magari, che ne so, delle grandi ville sul Brenta, ma in realtà era soltanto un tentativo di emulazione fallita, vediamo oggi qual è l'atteggiamento nei confronti della cattiva televisione da chi si sente così implacabilmente invece rappresentato. Melog 2.0. Io penso che sia i tronisti che i corteggiatori, se sono qui per il primo motivo unico, è quello che vogliono entrare nel mondo dello spettacolo, perché sennò uno, il fidanzato, se lo trova a casa, se lo trova in mezzo alla strada. Quindi, partendo da questo presupposto, che quindi siamo tutti qui, parlo anch'io, perché io oggi sono venuto qui, c'è un motivo, perché ho bisogno di dare una certa visibilità a un qualcosa che voglio. Allora, se siamo tutti qua, siamo qua per farci vedere. Poi, se nascono delle storie, magari ci si può innamorare, come è successo tante volte, però ci si innamora dopo, si viene qui per un altro fine, quello di diventare famosi, apparire ed entrare in un certo tipo di mondo, che è il mondo dello spettacolo, che fa gioco a tutti. Ma è giusto. Allora, oggi come oggi, essendo questo il programma più importante che c'è in Italia, questo era Fabrizio Corona nel momento di massima visibilità del suo personaggio, Corona che era diventato famoso, Corona che era stato incarcerato, Corona che era uscito di carcere e aveva creato una sorta di tabernacolo dal terrazzino di casa sua dove andavano sotto le ragazze a rappresentare la follia di gruppi per il loro idolo. Non aveva fatto nulla Corona che ha rappresentato una sorta di ideale di maschio tronista per eccellenza, il muscolo scolpito, il muscolo lucido, Corona col tatuaggio, Corona che abbraccia Irene Pivetti, uno dei cortocircuiti più incredibili della storia degli ultimi 100 anni d'Italia, Corona che va al processo cambiando completamente aspetto esteriore, si mette degli occhialetti finti di plastica, si veste da bravo ragazzo. Tommaso Labranca, cosa ti ricorda Corona con gli occhialetti? Qualcosa che ho letto nel tuo libro 7808, gli africani che vanno per strada a venderti quei libri lì, che fra le tante persone che ti importunano ogni giorno, oltre la firma contro la droga, che io non appongo mai perché dico io mi drogo, quindi non firmo, non è vero naturalmente, ma serve per scompaginare le attese. Ci sono gli africani che ti vendono il libro sull'Africa e si mettono gli occhiali finti. Sì, cosa che fanno anche certi giapponesi, perché comunque in queste culture, ma ormai a quanto pare, se c'è in Africa, c'è in Giappone, c'è ovunque, c'è anche da noi, gli occhiali sono il simbolo comunque dell'intellettuale, di colui che si è consumato gli occhi sui libri e oggi anche sui computer, per cui se vuoi avere un rapporto diretto, orizzontale con un intellettuale, uno che ti può comprare il libretto sulla cucina etnica milanese, devi mettere gli occhiali, hai quindi una patente di intelligenza, e penso che Corona ha ragione nello stesso modo. Pietro Vereni, ricercatore di Tor Vergata, autore di Identità catodiche, nell'occhialetto finto di Corona c'è il tentativo di ricreare una delle identità catodiche che tu stai cercando di farci capire questa mattina? Ma sì, è evidente, no? l'occhiale è esattamente lo schermo, cioè tra la realtà, tra il reale con la R maiuscola e la nostra capacità di elaborarlo, ci mettiamo intenzionalmente uno schermo, perché pensiamo che questo un po' ci protegge da quel reale e un po' ci consente di vederlo meglio. È il destino mediato di qualunque comunicazione. Il nostro sogno sarebbe l'aspirazione della comunicazione immediata, che è un ossimoro, una contraddizione in termini, la comunicazione immediata. Purtroppo come esseri umani siamo costretti a vivere la nostra immediata nel senso che non passa attraverso, esatto, non veicolata da mezzi di comunicazione, ecco, è quello. Ma questa non è un po' l'illusione e la frenesia di che ormai si reputa di essere la televisione? L'apertura di Pippo Baudo che abbiamo mandato questa mattina dava l'impressione di qualcuno che consideri di essere lui stesso il medium, quindi la comunicazione è lui. Sì, sì, è uno dei trucchi che la televisione mette in gioco, no? Il paradosso di essere lo specchio del mondo, no? E non semplicemente un altro filtro sulla realtà, o molto spesso addirittura sempre più un filtro su se stessa, perché c'è questo problema, no, di scollamento della rappresentazione della televisione rispetto al reale esterno, invece parla sempre di più di se stessa, insomma. Ma l'occhiale è proprio questo, insomma, è simbolicamente accettare il fatto che il mondo non riusciamo ad acchiapparlo così direttamente, abbiamo bisogno di strumenti per arrivarci. Tommaso Labranca, ti ho fatto una domanda in chiusura della prima parte su questa sorta di furore borghese nei confronti della televisione che rappresenterebbe, ammesso che il termine ancora abbia un senso, perlomeno abbia un'accezione simile a quella che comunemente abbiamo sempre attribuito alla borghesia, sente così impietosamente rappresentata e quindi deve dire che la televisione è qualcosa di cattivo. Sì, questo è vero perché la borghesia da quando è nata ha sempre cercato di rappresentarsi nelle vesti di qualcosa che non è. A me fa venire in mente il cimitero monumentale a Milano, che è un cimitero artificiale nato per volere del comune e dei borghesi milanesi, quando si sono resi conto che in città c'era una bella classe borghese ma mancava un cimitero tipo quelli francesi, in cui attraverso le statue si potesse eternare un'immagine non reale, non vera di coloro che sono sepolti sotto. Quando invece i borghesi si vedono rappresentati così come sono, con tutti i difetti ma anche quei pochi pregi, comunque non l'accettano questa cosa e allora attaccano. E qual è il mezzo espressivo, il mezzo di comunicazione più borghese di tutti? È sicuramente la televisione, perché è quello meno intellettuale alla fine, è quello più diretto ed è quello che arriva alla maggior parte di persone. Adesso faccio entrare in campo un'altra forza, che è la mia amica Barbara Alberti. Barbara, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Io da lei, Alberti, vorrei parlare proprio di Sepolcri Imbiancati. Siamo arrivati alla fine di un grande discorso sulla televisione e arriviamo all'aspetto funereo. La celebrazione dei monumenti funebri sembra la più grande aspirazione di coloro che da una parte attaccano la televisione ma ne fanno parte del tessuto connettivo. Lei è una grande scrittrice, una poetessa, una polemista, ma la televisione la usa fortemente. Grande, io credo che uno scrittore deve essere soprattutto uno scrittore. I miei amici sono tutti grandi, Alberti, ho questo limite. Ma la mia percezione personale è fattibile di ogni critica, naturalmente. No, dicevo, è singolare che però esistano delle nuove professionalità che richiede la televisione. Una persona che si incazza facilmente, che rappresenta un pensiero differente rispetto agli schemi televisivi e che attacca direttamente la televisione, è stata ospite non so di quante giurie, di reality, di programmi televisivi del pomeriggio, della mattina, è sempre quella che dice il contrario, ma continuano a chiamarla invece di chiuderla in una stanza e dire questa ci dà fastidio. Come mai? Le cinture mi sospendono, ci sono queste sospensioni come a scuola, non so perché parlando di una trasmissione sulla prostituzione si dice, ma non come provocazione, come realtà, che per esempio i preti sono grandi clienti delle prostitute. Ma me lo diceva anche mio nonno, chiudevano tutte le porte quando entrava il prete. Non è una cosa, vuotavano la sala d'aspetto e chiudevano le porte. Allora ti sospendono. Però devo dire la verità, Nicoletti, che perché non mi chiudono in una stanza? Perché evidentemente la mia parola è irrilevante. Evidentemente non faccio male a nessuno alla fine, mi illudo. Perché quelli che hanno una parola veramente forte, veramente eversiva, come Sabina Guzzanti, in televisione ci mette più piede. Beh, quindi però su spazi mi dà molti dubbi sull'importanza reale di ciò che dico. Quello è un altro fenomeno, Alberti, no, poi ne parliamo. La Guzzanti ha la sua gloria proprio nell'avere degli spazi dentro la televisione molto difficilmente conquistati, al di fuori ha la gloria dell'esclusa la televisione. Quello è un altro ruolo rispetto a te. Ma lei non lo faccia apposta, lei è un vero poeta, voglio dire, che ha trovato un mezzo per esprimersi, perché come sappiamo la televisione è neutra, voglio dire... dipende cosa ci metti dentro. Io tra l'altro dubito anche, caro Nicoletti, di questo dominio della audience. Non è vero, perché cioè, la audience vale solo nel basto, non so se mi spiego, cioè se c'è un brutto programma che fa 10 milioni benissimo si fa, però quando va Paolini e con un spettacolo costo zero, salvo il suo grande talento, e fa 10 milioni sulla 7, il giorno dopo dovrebbero aprire i poeti, gli affubulatori, se ce ne sono. Invece tutto continua come prima. Quindi ma crea un grande evento emotivo, però la televisione, Alberti, sono convinto che sia quello di cui stiamo parlando noi. È roba popolare, roba per palati non raffinati. Io sono convinto soprattutto una cosa. Pasolini diceva una cosa bellissima, il contesto sono io. Ma poteva dirlo finché scriveva sul Corriere. Io ho l'impressione che invece il contesto sia proprio il contesto che si venga e che si venga alla fine soffocati, non so se mi spiego. Perché siamo tutti, diceva Fellini, quando avevano messo le pubblicità, no, che interrompevano i film, diceva gli italiani diventeranno un paese di cretini distratti. Beh, lo siamo già diventati, saltiamo. Ma può essere che la colpa sia sempre solo della televisione, Alberti? No, la colpa è di chi la guarda, perché è uno specchio assoluto, voglio dire. C'è un bel libro di Massimiliano Parente che si chiama Contro Natura, dove c'è una cosa che lei tra l'altro sono anni e anni che dice, ed è che la realtà televisiva e quella e la realtà cosiddetta si sono fuse ormai, si sono fuse in maniera quasi ineluttabile. Dirò di più, qua concludo, saluto i miei ospiti che mi fanno segno, siamo arrivati alla fine in maniera piuttosto veloce, che in realtà molto spesso non siamo noi a guardare la televisione, ma la televisione che guarda noi e ci riproduce poi a suo capriccio, e noi ci guardiamo nella riproduzione, a volte ci identifichiamo, a volte no, ma comunque ne siamo sempre eternamente schiavi. Email melog@radio24.it. Melog va in replica questa sera alle 22:00.